io so, vabbè, fai così, basta che mi la fai me. Oggi era stata già fatta me la macchina, se non c'era stato questo inghippo. Ma tu non te ne accorgevi che perdeva una? Mi ha già messo come tappizzato per che cosa che non andava. Ah, ecco. Vabbè. Sì, ma tu era matesigosa, ma tu paghi di più. Non è come cambiare una guarnizione, cambiare tutto il cambio. Però non lo sai, cosa? Se si trova, ripeto, giramento di balle. Cosa facciamo? Un tentuero già a ciappi. Non lo so, non ne ho idea. Guardate tu. Capo, io tanto non corro nel forno a controllarlo. E me la schiacciate le patate, oggi mi faccio la pancia a tacchino. Vabbè. Così ti fa la schiacciata. Meglio la schiacciata, che altro. Per cambiare, dai, già, a me la cambia qualcosa di diverso. Quindi. E allora, Carlo? Prima dicevo, io la cena ce l'ho già pronta, avevo fatto del pesce, capito? Ci aggiungo un po' di olietto e di limone e poi c'ho verdure bollite, fagiolini buoni. E io, guarda, sono entrato tardi oggi, ho fatto un lavoretto alla signora che mi chiama spesso volentieri e quindi non so poi i soldini e vabbè. Carlo, quando è che ci vediamo? Ci abbiamo un bel caffè, cavolino? Guarda, adesso c'ho... Oggi e altre tre mattine, quindi l'altro giorno ho avuto un contrattempo e quindi ero uscito e mi sono dimenticato che avevamo un mezzo appuntamento, capito? Già lo organizziamo quando faccio i pomeriggi, capito? Che ho la mattina libera, che va meglio, magari sale anche Gianni, se no andiamo a prenderlo, capito? Scarpa, non c'è problema. Io domani devo andare dall'avvocato che mi ha dato del lavoro da fare e quindi già le ho fatto alcuni lavori e sono ancora altri lavori, mi ha chiamato davanti a me dopo che mi dico ci vuole, andare un po' di clienti me la sto facendo, dai, almeno si va avanti. Avanti a tu. Piano piano. Domani dramatico, a proposito non mi ha chiamato ancora, mica rincoglionito forse, insomma. Mi doveva chiamare adesso per un lavoro per domani e non mi ha chiamato. Io il cabaretto i contattisti, mamma mia. Ma poi chiamo io, va. Carlo, dimmi Gianni. Ma sai a me cosa mi è venuta voglia? Mamma, quando ero ragazzo, mi faceva sempre le mele cotte con lo zucchero e quelle mi piacciono a me, mi piace, guarda, solo il brodo impazzisco quando sono fredde, oh, io altri sono buoni. Mi è venuta la voglia di mangiare quelle, chissà perché. Non lo puoi mangiare, ti fa male. Buono, sono anni che non le mangio. Mamma le faceva a casa, mio padre era ghiotto di mele cotte. Se le faceva sia in forno che, ma a me mi piacevano più quelle fatte con l'acqua, lo zucchero, era le gogo. Già, roba buona, anch'io sono una vita che non le mangio quelle, però idem, il sughetto che esce, il succo è ottimo da bere. E le può bere, li fa male. Anche le patate fanno male, contengono carboidrati. Meglio carboidrati che tutto con lo zucchero, mamma mia, no, troppo forte quello lì. Le patate sono carboidrati, come il pane e come tante altre cose, contengono carboidrati. Quindi, le paste. Ma te ne mangi io, Carlo? Non c'è andato a pigliarsi le paste, talmente che era, aveva voglia di mangiarle. È andato a pagare, è scivolato e si è fatto male nella schiena. Chissà la proposta di mangiare le paste, mi. No, due costole fratturate, diciamo. Penso un po'. E poi passa, non hai più mangiato. Allora, la storia è questa qua. Io sono stato appena operato alla gamba e stavo da poco, avevo tutte le stampelle, stavo camminando senza stampelle. Cosa è successo? Sono andato a tornare indietro, deve essere che ancora quel movimento non ero pronto a farlo e sono caduto. Praticamente ho sbattuto al marmo che c'era dove si pagava, c'era un marmo di quelli rosa e ho sbattuto lì e sono caduto in terra e sono usciti tutti i pasticcini, una figura. Sì, scivolato. Quello perché era un avviso, quello lì, era un avvertimento, non puoi mangiare le paste che ti fa male. Sono caduto col vassoio delle paste in mano e con una pasta che me la stavo mangiando perché ne era rimasta una sola e gli ho detto, quella lì cosa la lascia da sola, me la dia che me la mangia adesso. Oh, iaia, golosoni. Lo sai, prima quando non ero diabetico queste figlie non mi venivano, io dolci ne mangiavo pochi, ma va. Oia, adesso che è proibito. Una volta mi ricordo che ero con la buon'anima di Natalino, siamo andati in questo bar dove c'era un'esposizione di paste e mastodontica, proprio c'era tutto un bancone grande, tutto pieno di paste, e mi sono messo davanti, il Natalino mi ha preso e mi ha tirato, aiuto che ti batti di mari, se no stavo mangiando degli ultimi. E poi da parliamo del comprigerati, non è come più la confezione, quelli sfusi, no, lui si compra adesso la cassetta da 2 kg o carne. Così è, se la mangia tutto. Da 1 chilo, esagerato a 2 chili, 1 chilo. Ci sono che la scritta 2 chili. Da 1 chilo, vedi un po'. Ti mangi mai il gelato, no? Però io sto tutto l'inverno che non ne mangio di gelati, eh. Invece tu continui a riempirti il pozzetto. Più ci dico di non mangiare queste cose, più le mangiamo, non c'è nulla a fare, mangia tu. Anch'io sono goloso, A me la Nutella prima non mi piace, ma se mi dà le paste, la crema, e così mi rimane con cuore. E poi cosa buone? E il tiramisù a ti piace? Preso un barattolo. Quella è una baseria. No, 900 grammi, quasi 1 chilo. Ogni mattina una fetta biscottata, 2 o 3 me ne facciamo. A semidura, non anche devo venire più. L'altro giorno abbiamo mangiato il tiramisù con Antonio. Me l'ha fatto una persona e me l'ha portata a casa. Ma buono, veramente buono. Purtroppo siamo come hai detto tu, come bambini. Più si dirò da io mangiare, mangiamo. E poi quando mangi, ripeto, con gusto, che è talmente voglia, ma con la glicemia ti sale. Vado un po'. Avanti, calma. Dai. Peccati di gola e si perdono. Come dice lei. Gruppo, cioè. Era troppo buono, era. Era ben buono così la messo. Poi mi avvio piano piano. Tanto, ma non ascolti. Cola da parecchiare. A te? Sì. E c'è la partita dell'Italia. Mi stai sentendo? Vediamo. Sta parlando. Capito. A te. Dimmi, ho abbassato il volume. Aspetta, dimmi. E lo stai schiacciando a Carlo, ma non lo senti? Aspettate che finisca di parlare, lasciate uno spazio, se no ci schiacciamo uno all'altro. Luca, ci sei? A Luca non c'è. Deve essere uscito a portare il cane. Siamo golosi, un po' tutti siamo golosi, specialmente quando è proibita la cosa, ti viene voglia ancora di più di mangiare. Poi tutte queste cose, pasta al forno, tiramisù, tutte queste cose buone, cannelloni, Guarda, io ogni domenica ho o pasta al forno oppure ravioli con ragù. E io, guarda, domenica ho fatto gli gnocchetti alla campidanese e ci ho messo la salsiccia nel sugo, quella affumicata che è buona e ce l'abbiamo leccato. Vabbè, io ne ho preso un piatto solo, ma mio figlio e mio nipote se l'hanno mangiato 2 piatti a testa. Se mette anche la panna in mezzo diventa sugarosa con la salsiccia, ma lo sai quanto è buona. Ma la panna è troppo, a me mi nausea la panna, è troppo pesante, boh. Invece col sugo solo, proprio sentire il sapore del sugo buono, Ma così ti la palla, dai. È un bel sugo essere così buono, saporito. Oh yeah, non venne. Avanti, ma aspetta. Oh Antonio, ma tu a capo? Lo senti bene? Vabbè, con lo squash girato. Ma perché ogni tanto lo schiacci, che? Avanti capo, scusa, mi c'avevo lo squash tutto girato, c'avevo. Ho toccato male. Non ti preoccupare Antonio. Adesso magari mi senti anche meglio, Tony, con questo passaggio. Prima ero staccato, adesso sono attaccato, perché sono in posizione sempre buona ma antenna precaria, capito? Quindi a volte devo abbassare, a volte alto, a seconda della zona dov'è, capito? Adesso la prossima settimana che ho un po' di tempo mi porto sull'altra radio che è più prestante rispetto a questa, così non ho bisogno neanche di stare lì attaccato, perché là c'ho i watt regolabili sulla radio e così ho qualche pezzo in meno sulla scrivania. E tutte cose che sto provando piano piano, perché avevo smesso quasi un annetto, capito? E quindi ancora sono in fase di reinstallazione di una piccola stazione, capito? Per la banda cittadina. Va benissimo, dai, io vi saluto tutti, dai, ciao Gianni, ho sentito il cane che ti chiama, che a te si sentiva mugugnare, aiuto, portami a fare i bisogni, ciao Tonino, grazie del QSO, poi ci sentiamo in questi giorni, ciao Antonio e Luca se riprende. Ci sentiamo alle prossimine, passo e chiudo, ascolto il vostro finale, poi me ne vado a preparare. Ciao Carlo, ciao, ci sentiamo, adesso se ti vedo mi tocco le palle alla bocca, sono per dirvi, ciao a tutti, grazie per il consiglio, rientrate spesso e volentieri, ciao. Ci siamo sopraccupati già. Ciao Carlo, avrà sentito a te perché sei più vicino a quella zona sua, poi sei più in alto e sei lontano. Comunque dicevo, Carlo, Santiago 915, radio 5, ok? Comunque le 10 sentiamo, sarei bene, avanti Antonio. Ciao Carlo, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao. Ehi, ciao a tutti, buona serata. Mamma mia, che giornataccia oggi. Tutta la di quelle balle di radio gioco. Ma senti uno pio pio, chi è? Ma io mi devo spostare, ci sentiamo dopo se ci siete. Ehi, sentivo uno pio, da molto lontano. Chissà chi era, perché tutto lo squarci aperto. Ciao, ci sentiamo. 5-10, c'è qualcuno? Avanti! Prova! Avanti! Ciao Antonio, chi è l'altro che ha detto prova? Non l'ho conosciuto. Beh, Robè! Oh, prova! Sono rientrato, vediamo un po'. C'avevo questo baracchino fermo da un sacco di tempo. Ciao Luca, ben sentito, ben sentito anche Antonio, c'è qualcuno nel fondo. Questa non è la radio mia solita, come mi ascoltate? Sto benissimo. Beh, Robè. Più bassa come modulazione rispetto alla solita. No, provo, fa passaggio. Vabbè, dai, sennò dopo passo con l'altra. 1, 2, 3, prova, 27.075, canale 10. Oh, va bene, dai. Diciamo quella là è la più spinta, ma va bene anche questa, non è male. Cappa, e tu che radio stai utilizzando, Luca? 3009, ci porta 3009. Benissimo, anche Antonio non ne parliamo. Ma sai che c'è qualcuno sotto, stava chiamando. Avanti, chi è? Vabbè, non ne ha voglia. C'è qualche d'un altro, io non sono stato così diretto senza ascoltare. Non lo so, io poi mi sono spostato, ho abbassato il volume perché stavo facendo roba, dai. Sono rientrato. Antonio, nessun altro c'è? Ma a quanto pare no. Poco fa c'era Gianni e tutti stavano parlando, adesso proprio. Sembra una radio a valvole, sembra, modo come modula. Tipo materiale, roba così. Ma la mia stai dicendo? Sì, già. Diciamo una radio un po' seria, dai, non è un giocattolo. Sì, una roba del genere, dai. Aspetta che metto l'altra un attimino, ora tanto devo solo commutare, un secondo. Appa. Io, e domani torno ancora a motto, mio. Meno male che mi compro bene, stamattina. Oggi la persona sta mal di gambo, vero? Questa è la mia solita. Questa è più chiara, altre male, ma leggermente più cupare, beh. Sai che io sono rimasto a piedi, grazie a Dio, una si è chiamata Giuseppe. E cosa è successo? Non da poco, no, da un po' questa situazione. Perché non mi si è rotta la guancia della testata, la pompa dell'acqua e la cinghia di distribuzione? Ah, sì. A me mi perde questo, voglio dare il cambio. Mi sei entrato in mezzo alla prigione, mi sei entrato, mi ha fatto un disastro. Adesso vediamo. Se entriamo un cambio usato, trova e lo sostituisce, cioè, lo mettiamo nuovo. Perché mi sei entrato lordo nella prigione. Immagino. Avanti, roba. Cappa, e quindi sei a piedi lui? No, io no, ma mi l'ha sistemata. Ah, ho capito che c'aveva problemi. E tu, Arturo, cosa c'hai? Il cambio, praticamente perde olio, mi è centrata a mezzo la pressione, mi sono entrata. Ha fatto un casino, l'ha fatto. E vabbè, adesso Tonino sta cercando un altro. Da mettere. Ma torni dal meccanico, sai? Beh, la porto da lui. Anche lui le macchine mie me le fa lui quando sono cose importanti, non fa perdere tempo. La porto da una persona seria, onesta, poi un amico. Una persona seria, sì. È una vita poi che fa quel lavoro lui, poi ti tratta bene, non ti preoccupare, a parte ti conosce. Ma è da Edo, le porto tutti i carte di commissione, le porto. La strada sono andato muro a muro a pigliare una gima. Poi gli dà una mano a quell'altro, come si chiama? Pari Claudio, così si chiama. No, è un altro, non me lo metto che si chiama Chinto che fava. Ed è bravo anche quello lì, un po' disordinato certe volte, ma c'è esperienza, quello anche lui lo stesso ha lavorato anche alla Volkswagen tanti anni. Claudio si chiama. Mi pare Claudio, adesso non insisto, ma io mi ricordavo Claudio. Capo, come la sto facendo loro adesso? Se no era stata già pronta stasera mattina, era stata pronta la macchina, ma c'è questo problema, c'è la pressione sua, non è manco consumata, come ti dentro a Druzzo ha fatto un casino della Madonna, ha fatto, perché io poi ci sto attento, no? Ma non so con cui vedo innanta la pressione, non mi so come, ma mai sono di carriera questa macchina. No, di che era? Quella macchina lì era del signor Mazzara, ti ricordi? Che faceva il finanziere, abitava il 4 novembre. No, adesso non ce l'ho presente di nome, magari lo conosco già più o meno di quelle zone, già ci ho bazzicato, già ne conosco di gente. Ah, ne avevo uno preso una mia figlia, una uguale alla tua, lo stesso, tre porte o cinque porte alla tua? Cinque. La mia era tre porte, l'ha tenuta un pochettino, poi l'ho data a questo amico, entusiasta, sempre mi ha dato una macchina eccezionale, non consuma, ci avrà 100.000 km con la macchina, era un gioiellino, dai, ne prendi tu. Sia molto meno. Oh, un attimo, sto facendo roba, un attimo, arrivo. E io ciao lui, tanto anch'io tra poco vado a mangiare. La mia era molto meno, mica la figlia c'ha cose di contabilità in via via. Cioè, io l'avevo comprato a quelli lì, capito? Antonella, cioè, la nipote la stava usando, poi l'ho comprata io quella macchina, capito? Ma sono motori che non ti chiedono niente, nel senso consumano poco, poca manutenzione, ricambi li trovi qualunque, cioè c'è carrozza e trovi di tutto di più, i pezzi di ricambio costano poco. Sono macchine che io consiglio sempre, la 1, la Panda, la Grande Punto, poi quando inizi a prendere macchine troppo recenti che c'è elettronica, hai finito. Quella invece non ti chiede niente, consuma pochissimo, pochissima elettronica e stai sempre andando. Già lo so già, se paghi su per le mie tasche io non mangio di là, cioè per le mie tasche ho scelto una macchina del genere per quel motivo, ma ti dirai a Marasossi, Kappa. io sono riuscito a portarla a più di 170 un giorno. E attira già. Insomma, non ti preoccupare, cammina piano, stai tranquillo, non è fatta per correre, quella macchina è una macchina per uso normale, senza tirarle il collo, e ti dura una vita. Sono motori che fanno 500.000 km quelli. Io lo so già. La mia l'ho presa a 52.000, adesso ne ha 74 ne ha. Quindi si può dire rodaggio questa macchina. La mia ne ha 300.000 di più della tua, 378.000 ne ha fatto. Uh-huh. Ah, tua figlia l'ha tenuta poco, perché le ragazze sono così, sono. Io voglio una macchina più moderna, più bella, cosa? Però ho provato la panna ibrida, non è male. Non è male come macchina. No, no, mia figlia non è vistosa, la grande è tranquilla, anzi. Quella lì la stavano rottamando, un amico. Mi ha detto, guarda, ho preso un'altra macchina, questa non me l'hanno valutata niente, che conosci per rottamarla? E rottamarla, ah, la prendo io, che me l'ha regalata. 100.000, ma super collaudata, nel senso, questo li faceva tutti italiani, rigidi, proprio scrupolosi. Le aveva cambiato i fari per dire, perché c'erano opacizzati, anziché portarli in officina a sistemarli. Poi l'ha tenuta, quante, forse 2 anni, 1 anno e mezzo, mi è capitato ad occasione una grande punto 90 cavalli diesel multijet di un ragazzo di Sorso, era bellina, ci aveva molti chilometri, gli ho fatto qualche lavoretto, ho venduto, l'ho pagato 800 euro, ho venduto 600 euro l'altra, gli ho messo a posto e sarà sistemata, però c'era un problemino che scaldava un pochettino ogni tanto, e tienila sotto controllo. Quando è salita su a lavorare l'anno scorso, proprio salendomi, appena ha fatto tutto da Genova a Parma, al semaforo, tu vedi questa macchina in ebollizione, lì si è bruciata la guarnizione della testata, alla fine si sono messi d'accordo col fidanzato, si mettono una rata e hanno quelle macchine a noleggio a lungo termine, se poi te la vuoi riscattare e hanno una macchina nuova, perché tanto di lì non le potevano usare, dovevo usarle dopo un certo orario perché non era Euro 6, non so che cosa, alla fine si sono messi d'accordo e si hanno preso una macchina nuova, una Skoda 1100 mi pare che sia di cilindrata, una cosa del genere. Di nuovo a te, Antonio. Non è già bellina, lo so, ma andiamo a entrare in officina, che queste macchine sono un salasso, sono non è come tirare un qualcosa. Però 1300 jet già va bene, cioè io non ce la facciamo quella blu, sono una bomba, la prima di che la giubilia da io, cacchè duro si è associato un po', non voglio fare nome. Quella macchina la sua era la versione sport, 90 cavalli, 95 cavalli, 6 marce, ma tanto camminava, poi c'aveva un sacco di opzioni, cerchio in lega, le ruote larghe, cioè era la versione sportiva con l'alettone dietro, però era diesel, non la conoscevo perché pensavo facesse solo benzina, c'aveva un po' di chilometri, questo ragazzo faceva tutti i giorni, viaggiava da Sorso a Coso, a, come si chiama, a Badese mi pare, faceva il muratore tutti i giorni, infatti ad Aredo mi caricava boga di roba. Ne ho tutto tirato via, tutto sistemata, i sedili mi hanno dato dei sedili nuovi e la macchina è tornata fiammante. Mi ha messo bassolato, associato. Aspetta, ti tolgo le scarpe, Gabriele. Vediamo se c'è qualche donato sul 10, un paio di minuti e poi passiamo da altre parti. Canale 10, che vuole entrare per i saluti. Bravo, nessuno. Se mi trova in mano a me, che sarei potuto fare un fine corso, sarei potuto fare. No, ma non l'ho mai tirata, no, non me ne ha fatto nulla a me. No, non sono un tipo che si mette a fare lo scemo in macchina, tranquillo. Poi va, tenete l'aria la battente, subito, lasciamo perdere. Sì. Se hai qualcosa atteso, già non dalla chat, non ti preoccupare. Allora, ieri, no, quando è? Che sono andato in banca, martedì. Un amico mio l'ho visto a piedi, e tu qua cosa ci fai? E sto andando all'avvocato perché mi hanno ritirato la paga. Come mai? E ho bevuto 2 mezze spine, dopo mangiato, ho assegnato l'etilometro e mi hanno ritirato la battente. Bello guasto. Ma io non bevo, no, assolutamente. Guarda per quello, no. Ma manco mezza birra, manco, ma manca fiago me, pure sto lontano dai cioccolatini, dalle cose. No, per quello no, Oh. E non fai male, e non fai male, perché troppa gente, io conosco gente che si mette in viaggio, tu ammazza di due, però c'è il rischio che ammazzi gli altri, è quello che a me mi dà fastidio, ammazza di due. Oh, per quello no, ma che affianco, guarda, che cosa che faccio, faccio un video di correre, ma adesso già mi sta passando un pochino, faccio un video di camminare un bel. Anto, ricordati che c'è un bambino piccolino, per cui non c'è bisogno che ti dica altro. Quando sono cura solo, lascia di, sono combattuto a re. Alle 7:20 da Sassari, sono arrivato da Olbia alle 10:10. Vabbè, e stare attenti a te e alle altre persone soprattutto. Basta dire alla mia sorella che è ancora in convalescenza dall'incidente, uno un frontale l'ha presa in pieno il 13 di agosto ed è ancora allettata. Che sono, cioè non state attenti qui dentro. Cosa c'è Gabriele? Oh, il caro mi sta facendo lì. Cosa c'è amore? Cosa c'è un cane? Amore, che non fa le carezze mi fa. Beh, lo so, perché non state, cioè, non state attenti, non state. Quando sono passo, bisogna avere la visuale buona, bisogna avere. Questo è un ragazzino di 21 anni, gli ha invaso la corsia, c'erano tutte le macchine incollate, era biliardi in pieno, e meno male era con una macchina di questo amico suo, di scuola, se no sarebbero tutti morti, una passata grossa. Se la macchina sua sarebbero morti. Sono stati più di un'ora per togliere la macchina, perché era incastrata dentro. Ma che un idiota, non sa guidare. Un ragazzino di 21 anni ti mette a sorpassare di notte, tutte le macchine incolonnate in piena curva, le abbigliate in pieno. No, non ci sto io. Cioè, che cose. Cioè, no. Sono, preferisco aspettare, preferisco. Perché no, sto attento, un bel me. Io sto molto, molto, molto attento quando guido. Se vedo che me la piango, se vedo che c'è pericolo, io non sono pazzo. Se non è, come si dice, strada libera e cosa, io non ci sorpasso. Infatti non conviene mai, io già vado tranquillo, però l'imbecille lo trovi sempre. A tu ti lascio, dai, ci sentiamo, saluto anche chiunque fosse qua, non ascolto canale 10, dai, poi se coincide qualche volta già entro anche io sul 10, dai, ciao. Ciao.